Bentornati ascoltatori di Radio Città Fujiko, io sono Eleonore Crisa e oggi qui con me c'è Francesca Flati, rappresentante di Animal Equality, un'organizzazione internazionale che si batte per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare. Francesca, bentrovata. Grazie mille, grazie a voi. Animal Equality è impegnata in prima linea nella campagna per fermare l'uccisione dei pulcini maschi nell'industria delle uova. E oggi ci aiuterai a capire un po' meglio questa situazione e soprattutto anche la difficoltà nell'attuazione della legge e delle possibili soluzioni per garantire che questo divieto si attui. Allora, non tutti sanno che purtroppo i pulcini maschi, poiché non producono uova nel momento in cui cresceranno, vengono considerati degli scarti da parte dell'industria. Di conseguenza non vengono mandati in produzione, che comunque probabilmente non è neanche un bel destino, come invece succede per le femmine, ma vengono direttamente uccisi a 24 ore dalla schiusa in genere, attraverso dei metodi anche molto cruenti, perché parliamo di triturazione, di macerazione e di gasatura. E ovviamente sono tutte pratiche che vengono fatte mentre il pulcino è ancora vivo e quindi del tutto cosciente. E cosa succede? Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo dai 34 ai 36 milioni di pulcini maschi uccisi ogni anno, quindi sono anche numeri molto molto importanti. Quali sono secondo voi le cause principali del ritardo dell'attuazione della legge che vieta l'uccisione dei pulcini maschi? Qui dobbiamo fare un passo indietro, perché proprio considerato quanto stava accadendo, nel 2020 Animal Equality ha avviato una campagna, ha raccolto più di 100.000 firme da parte dei cittadini che appunto chiedevano al Parlamento, al governo, alla politica di vietare questa pratica, e in effetti poi con la legge di delegazione europea del 2021 si è riusciti ad inserire un articolato particolare per cui entro il 2026 dovrà essere messo in vigore questo divieto di abbattimento dei pulcini maschi. La legge poi prevedeva degli ulteriori decreti, in particolare un decreto attuativo che a sua volta prevede altri provvedimenti. Ora, il decreto attuativo è stato fatto nel 2023 a settembre e da lì, entro aprile del 2024, il governo si è autodato questa scadenza, doveva emanare degli ulteriori provvedimenti necessari proprio per completare tutto l'iter di implementazione della legge. Invece questa scadenza è saltata, ancora ad oggi i provvedimenti non esistono e quindi ecco perché siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Una soluzione chiave nell'implementazione della prevenzione dell'uccisione dei pulcini maschi è l'ovosessaggio. Ci puoi spiegare, Francesca, un po' in che cosa consiste? Certo, allora in realtà ad oggi è l'unica soluzione percorribile che si conosce, diciamo così, e semplicemente significa identificare il sesso del feto, quindi del pulcino, prima che diventi pulcino, all'interno dell'uovo e fare in modo che quest'uovo non venga incubato e quindi non arrivi alla schiusa. Che cosa si può fare a livello individuale e come si può aiutare questa causa? Che cosa può fare un cittadino, una cittadina, una persona privata per sostenere questa battaglia? Allora, la prima cosa in assoluto che possiamo fare tutti i giorni a costo zero e ognuno veramente nel suo quotidiano è quello di scegliere prodotti che non derivino dagli animali, che siano 100% vegetali. Quindi già questo cambia tantissimo le dinamiche del mercato e ovviamente fa in modo che l'industria anche si metta al pari, al passo. Ovviamente poi ci sono anche delle attività proattive che si possono fare, e cioè tanto informarsi è la cosa principale, perché appunto tantissime persone non sanno che cosa succede, e poi per chi volesse fare ancora di più può anche avvicinarsi alle associazioni animaliste, magari dare un supporto nei confronti degli esponenti che possono davvero fare qualcosa. I cittadini italiani in buona parte stanno chiedendo questi provvedimenti mancanti e il governo deve ascoltarli, quindi quanti più siamo ovviamente quanto più sarà facile raggiungere il risultato. Certo, come si suol dire, no? L'unione fa la forza. Francesca, grazie mille per essere stata qui con noi oggi. Grazie a voi.